Qualche analogia con gli Scapè? Beh, i loro testi sono forse più spietati. Questi erano i Caso Perdito e la canzone era Palestina. Сердце мне, все в моей жизни для тебя. весна. Приходят новые мечты, ведь новый день подарит то, что хочешь ты. Пришла весна, все ваши дани увидят всегда. Сотрем границы и черты. Приходят новые мечты, ведь новый день подарит то, что хочешь ты. Dall'Ucraina una ska punk band scatenata, i 100 Padov, parola intraducibile anche su Google, dall'album 100% Solza Prislavesna, solo su questa frequenza, su questa frequenza, su questa frequenza, su questa frequenza, su questa frequenza, su questa frequenza, su questa frequenza, su questa frequenza, su questa frequenza. La Ley de la Energy, dall'album prolico di Moncello, gruppo spagnolo che ha già riscosso un gran successo in patria. Innumerevoli le date live in giro tra Spagna e Bassa Francia. E io ve li ripropongo su un'altra Radio Roma. Quando detti di romper la metà del dos, quando stipule una ley de la energy. Ay Dios mío, qué interrogante, qué cuestión tan arrogante, qué ignorante es este verso en el cual yo un día escribí, en el cual yo un día nací y comprendí que estaba aquí, que era mi ser, que quería ser un día para sin volver. Y yo por volver atrás manipulé la dimensión, atrapado en el espacio, en el mundo exterior, y en el tiempo me sumergí por dilatar mi yo interior, por gobernarme a mí mismo, extrapolé la situación. Esta vida fin troppe salite. Non ci sono restrizioni, trova sempre opposizioni. Su uno stile che hanno da ridire. C'è sempre qualcuno che ci osserva, non sarà mai come noi. Dice che qui non c'è testa, ma poi tenta imitazioni. Nonostante ci sia tanto da imparare, eccoci qua, non ci ferma le proteste che qualcuno vieterà. Anche se c'è questa testa, con gli errori che si fanno, non ci sono spiegazioni, noi non ci fermiamo. Anche se ti sembra strano, tu l'aspetti, noi balliamo, non c'è nesso in quel che canto. Ci sono spiegazioni, noi non ci fermiamo. Anche se ti sembra strano, tu la smetti, noi balliamo. Non c'è nesso in quel che canto, noi non ci Anche se questa gente mi piace, l'obiettivo di pazze per noi. Senti il groove che ti esce normale, ma il friend vorrei solo invitarti con noi. Tu capisca, qui è tutto normale. Ti invitiamo a bere distinto, distinto a ballare. Arem, arem, arem, arem. Dall'album Il Gallo ha rimesso le ali, gli Scamistate, in Adesso ve lo dico. Reggae folk direttamente dalla Sardegna. Penartra Radio Roma. Collegati su www.unartraradio.blogspot.com. Marihuana, marihuana, marihuana. THCX, gruppo polacco. Cercando su Giamendo non ho trovato molte info. Il loro amministratore è Kubantos, ma non si hanno altre notizie. Comunque questa, se non l'avete capito, era Marijuana, dall'album Muzikang. Mare, sole, spagnolo e surf, da Santa Cruz de Tenerife, il rock ska punk dei Sinestesia, album del 2004, I Pensabas que nos vamos a callar. Bomba atomica, un'altra radio Roma. Radio Roma, un'altra radio. Roma. Radio. Radio. Radio. Un'altra radio. Roma. La prima recensione che ho letto su Giamendo dice sonorità muy linda e credo che riassuma in pieno il loro concetto di musica ska. Dalla Colombia, I Despedidos ska con Yasegura de Bailar. Yasegura de Bailar. Yasegura de Bailar. Yasegura de Bailar. Yasegura de Bailar. Tarde de noche y no sé qué voy a hacer. No tengo un solo centavo ni nada para beber. Encerrada entre paredes yo me voy a enloquecer. Necesito quien me ayude porque me quiero perder. Sin amigos, sin familia, es noche de soledad. Mis neuronas se impacientan porque no hay en qué pensar. Mi cuerpo siente que explota ante esta realidad. Solo quiero enloquecerme y levantarme a bailar. Esca. Quiero bailar esca. Thank you. state ascoltando German is Coming dei Zamasca, gruppo francese, una demo molto rilassante che DJ Kempo vi propone su un'altra radio Roma. Termina, siempre vuelve a comenzar. Sueños de mentiras, ilusiones y tristezas vienen, nos confunden, nos engañan y se van. Y curiosa e piacevole la loro musica. Si definiscono ragga punky latin ska. Loro sono Bañeros, dall'album Menos de lo Mismos. Questa era Sueños. Amsterdam me meglio Cartalana, sin te piace ne giostrino ma te piace a fuma. Cartalana meglio Amsterdam, non me piace giostrino ma me piace fuma. Muoiono che da facile piace a fuma. Paga Amsterdam, paga Amsterdam, la da venne nel cartino fuma in più se legal. Sulla Amsterdam, sulla Amsterdam. Amsterdam me meglio Cartalana, sin te piace ne giostrino ma te piace a fuma. Cartalana meglio Amsterdam, non me piace giostrino ma me piace fuma. Dentro coffee shop, me godaria un bel tot. Non so mica un marziano, non goreccia, mo di spock. Me fumo de a skunk, me sfondo più da un tank. Se mi fai la giuntina, te ballo anche la samba. Più fora di un black block, ne voglio uno stock. La gente che mi parla dice stop, stop. Ma intanto sto in vetrina con la mia sigarettina. Se è meglio che stare in giostrina. Amsterdam è meglio Cartalana, se ti piace ne giostrina ma ti piace a fuma. Cartalana è meglio Amsterdam, non mi piace giostrina ma mi piace fuma. A Cartalan ci vado poco, a Amsterdam fare fuoco. Per la mia fame chimica sono diventato un cuoco. Gioco a scacchi con la skunk, mi hai fatto scacco mat. Io me ne vado ad Amsterdam, ti dico non fa male, provoca allucinazioni. Non sei mai morto nessuni. Voglio quella protetta, quella con l'etichetta, quella pure sana che mi spetta. Cosa che ti vuoi da me? Se voglio star sentati tutto il dì. Se canto e metto in tu un coffee shop. Le so perché l'erba la meda l'elettroshock. Vedo gente e se perde la mente. In giro coi pastiglie in discoteca in passa niente. Voto mi sapere in dove che starò. Se sta fra a butta in del bel coffee shop. Amsterdam è meglio Cartalana, se ti piace ne giostrina ma ti piace a fuma. Cartalana è meglio Amsterdam, non mi piace giostrina ma mi piace fuma. L'unio verra che fa male, tutti chi che c'ha bruata. Tutti i miei roghi scienziati, da puffa una capa di scena che sfrontata. Coffee shop, smart shop, esce sport. Coffee shop, smart shop, esce sport. Smart shop, coffee shop, esce sport. Smart shop, song sport, song sport. Ad Amsterdam ci vado per la mia cultura. Mi han detto che chi va tornando ama la natura. Non preoccuparti amore, è solo un viaggio. Mi fermo ad ogni angolo in un coffee per l'assaggio. Amsterdam è un paese di Wajuna. Amsterdam, ora non c'è sta proibizione che stai casa mia. Te richi a casa di Wajuna. Obama fa statite, mi era ever a manduna. Amsterdam è meglio Cartalana, se ti piace ne giostrina ma ti piace a fuma. Gardaland è meglio Amsterdam, non mi piace giostrina ma mi piace fuma. Io vi saluto e chiudo con Amsterdam, città che mi sta molto a cuore. Loro erano ancora a Cosca dei Compari e io sono DJ Kempo. Vi rimando al prossimo podcast sempre su www.nartraradioroma.blogspot.com, il sito di Nartra Radio Roma. Di Nartra Radio Roma. Roma. Di Nartra Radio Roma. Roma. Di Nartra Radio Roma. Gardaland è meglio Amsterdam, non mi piace giostrina ma mi piace fuma. Gardaland è meglio Amsterdam, non mi piace giostrina ma mi piace fuma. Gardaland è meglio Amsterdam, non mi piace giostrina ma mi piace fuma. Nartra Radio. Un'altra musica. Movimento. Nartra Radio Roma.